così già stavi andando bene e sta andando ancora bene. Ma infatti lasciamo stare così, vabbè. Qui c'era un po' di propagazione, ho visto stamattina, si sentiva la zona del Belgio, Francia, però c'era troppo chiasso, capito, troppe modulazioni, ce n'erano in FM, in banda laterale, capito, era un casino tutta la mattina, ogni tanto giravo a vedere se c'era qualcuno di chiaro che si sentiva, ma troppo chiasso, troppa gente, tutti volevano parlare, non si capiva niente. Vabbè, è così. Invece voglio sganciare, voglio vedere se anche da te sono 20 dB. Guarda che sgancio. Allora, tutto è questo. Guarda che sgancio, Carlo. Così agganciato. E così è sganciato. Com'è la situazione? Ora, praticamente prima eri fondo scala, come hai sganciato eri 9 più 20, però i picchi positivi mi riempivano tutto il display, capito? Con picchi positivi eri. Sì, beh, i picchi ci devono essere. Adesso saranno praticamente con 5 watt. Così con 5 watt e così con 100 watt. Così è 100 watt. Si vede la differenza. Ma aumenta la radio quando attacco. Diciamo che siamo troppo vicini, quindi è difficile percepirlo, capito? Si vede sì come attacchi e come stacchi, si vede la differenza, perché il segnale quello già me lo fa vedere, però la radio io la sento sempre, sempre bene, capito? Sia che attacchi o stacchi è sempre quella, forse perché siamo anche troppo vicini, in linea d'aria non abbiamo ostacoli poi, capito? Siamo uno di fronte all'altro. L'altro. Quello è importante, a me interessava questo lavoro qua, nel senso che non peggiori la radio, mi capito? Sto guardando, se non peggiori la radio, tutto lì, invece la radio rimane stabile, molto importante è quello. Più che beh, moto po. Allora, come andiamo? Andiamo benissimo. Oggi non mi sento i rumori col Galaxy, no? Tutto a posto. La radio è perfetta, tutto ok. Tutto a posto, mi sento benissimo. C'era un paio di tarature da fare sulle di commutazione, quindi agganciava e sganciava, è quello comune che faceva. Abbiamo fatto le regolazioni, adesso già va bene. Avanti Carlo. Beh Antonello. Beh Carletto, come va? Tutto a posto? Toc, stavo oggi provando la tua Galaxy. È tutta un'altra cosa quello. È tutta un'altra cosa, diciamo che è un po' più grande di quello di Claudio del 140. Però già c'è, come grandezza già c'è. E domani provo a portarlo su, infatti mi ho fatto l'attacco, ero giù in garage, l'ho attaccato al volo perché ho un'antenna giù attaccata a un tubo, capito, nel cortile. Infatti Claudio mi sentiva, Natalino no, però anche se io Natalino lo sentivo, però già è bella come radio. Bella sì, ne ho avuto tre di quelle, figurati, già lo sa Claudio. Sono sempre tutte uscite bene, grazie a Dio, di modulazione. L'unica cosa era che quando uscivo male, a volte usavo macchine di bettola, questo invece, tra questo il 2009 con il 4000 è stato un ecco, veramente bene, chiari e perfetti. Va bene, quello. quella è il Galaxy, è una signora radio, poi c'ha l'uscita audio frontale bello grande, quindi ha voglia che la senti bene. E il Mirto assaggiato l'hai? Il Mirto l'ho assaggiato, però l'altro no, l'altro non l'ho potuto assaggiare perché era quando l'ha aperto tutta acqua era, capito? Infatti l'ho dovuto buttarcelo. E io dico, cazzo, che è questa forestra, non c'è questo. E il Mirto l'ho assaggiato, cazzo, se è buono. Altro lo dovevi shakerare e poi mettere in frigo, se no quello fa il deposito sotto e l'alcol sale tutto sopra, capito? No, è tutto acqua proprio, non c'era manco deposito sotto, nulla, capito? Tutto quanto acqua è guardato da solo perché si è mai usato, capito? Quindi quello della pira, se quello già permette la veramente di lusso, l'ho assaggiato, no. Quando c'è nato, era di lusso, era. E già te ne porto un'altra poi. Sì, va bene, non c'è problema. Uiaia, riprendi qua. No, piovendo sta. Ah, sta di neve aria. Di nuovo piovendo sta. Vabbè. Gappa, gappa. E per altri 2 o 3 giorni ne ha messo di acqua, quindi figurati, ci dobbiamo accontentare. Ieri mattina sono uscito in terrazzo insieme a Antonio Cuculu, perché stava la tenda Giovanna, e sono sceso in golfino, un freddo, non ti dico nulla, davvero. E ho finito verso l'1:30. Poi ieri sera sono andato a farmi la spesa, poi ho visto un amico Fabrizio, ho bevuto una birra insieme a lui e poi sono entrato a casa. Infatti sono c'è un rumore allucinante, il rumore d'acqua Sì, c'era anch'io qui il rumore dell'acqua, sta piovendo un bel, bisogna lasciarlo fare, se no fa peggio. Avanti Carlo. Ti lascia piovere, lascia, già ci vuole un po' d'acqua, se, mi sa che piove sino a domani, forse dopodomani, ma da giovedì venerdì dovrebbe fare caldo di nuovo, quindi speriamo bene, dai, se riempi un po' i bacini quest'acqua è meglio. Ah, quello sì, speriamo bene che riempi i bacini, almeno ci abbiamo l'acqua per tutta l'estate. Oggi ne ha fatto veramente mi di acqua, perché a momenti veniva giù bella intensa. E io mi sa che chiudo adesso perché mi devo organizzare con la cena, alle 8 esco, se ci siete ancora poi già vi sento dalla macchina andando al lavoro se ci siete. Ce la risentiamo, ciao Claudio e ciao Antonello e a chi è in ascolto. Alle prossime. Ciao Carlo, ci sentiamo, neanche io mi allontano 10 minuti che mi accendo un paio d'ore la caldaia, che c'è freschetto, sono già le 7 qualcosa. Ci sentiamo dopo, Antonio, già è tutto acceso. E intanto sto cucinando il filo che a Sebona, qui. Adesso da qui alla cucina, dalla cucina qui, non c'è problema. E sentiamo dopo, mi dirà. Io ce l'hai tutto acceso qua, non c'è problema, ci sentiamo dopo. Ok. Hola. Cos'è questa ola? Piogge vento, che bussa al mio convento. E me già. E allora? Oh, stamane mi sono combinato un'incazzatura, vai. E perché già? Perché te l'ho detto che la mia dottoressa è andata in pensione, no? E mi sono preso l'altro dottore che è subentrato a lì. E praticamente stamattina sono andato a prendermi i farmaci. E mi ha detto che non me ne poteva dare perché lui non c'aveva il piano terapeutico. Ho detto guarda che c'era la dottoressa il mio piano terapeutico. A me non mi interessa, io sono un dottore, lì un'altra, questo e quell'altro. La dottoressa stava partendo a Londra, l'ho chiamata. Insomma, ha fatto un po' di passaggi, gli ha detto di darmene lo stesso che ce l'aveva lei, che glielo dava quando tornava. nuda di va, ha detto che non ne voleva sapere, che lui faceva il suo lavoro, lei lavorava come voleva, che poteva anche regalare le bici, lui lo faceva, documenti falsi. E ho detto vabbè, già lo so cosa faccio, adesso rischiamo i carabinieri, glielo detto in faccia, sono andato e chiamato i carabinieri e non vi sono giunti, ha detto che praticamente le robe sanitarie loro non possono farci niente. Non vede sangue in terra, non vi viene nei carabinieri, se non vi viene ne va così grave. Ma scusa, io gli ho detto, questo qui, gli ho detto, è una carabiniera, mi ha risposto, ho detto questo qui sono pastiglie salvavita, se a me non mi danno le pastiglie io me le vado altro mondo, non ha capito. E se succede una cosa del genere, ha detto, già se la prende lui la responsabilità di quello che ha fatto, però noi non possiamo fare nulla, se vuoi venire a denunciarlo venga qua, lo denuncia per come si è comportata. La dottoressa si è informata, ha telefonato alla SL e gli hanno detto che i piani terapeutici venivano rinnovati automaticamente e che lui non doveva fare una cosa del genere, che non poteva farlo. E allora cosa hai fatto? L'hai denunciato? No, mi ha chiamato e mi ha detto che non lo sapeva che di andare, e mi ha detto anzi di non tornarci più, ma di cambiarmi dottore, di non tornarci più, perché io nella giudizio di tutti i rigurori, la terapia non ve la giovata più, quando mai uno si deve rifiutare? Una cosa è la burocrazia, una cosa è la vita, non ho capito se per la burocrazia tu fai perdere la vita a una persona. Di quegli punti cambia per il medico subito. Sì, ma che? Ma le pago, non so dove andare, però non so chi premere, mi hanno detto uno di via Sedoli che è bravo. E vacci, si parli, poi in farmacia te, non c'è andare al coso, vai in farmacia e te lo fai cambiare dalla farmacia adesso. E mi ha detto non ci torni più, poi adesso si è ridimensionato, la dottoressa ha telefonato e gli ha detto guarda che ho chiamato l'SL, mi hanno detto così e così, e allora mi ha detto di dirmi di andare che mi aspettava, e io però pensavo che di andare lunedì, e invece questo mi stava aspettando, si è cagato sotto perché gli ho detto che richiamava i carabinieri, lo denunciavo, capito? E mi ha aspettato sino alle 2.20, capito? Alle 2.20 sono sceso e mi sono fatto dare le medicine. E mi ha detto, lo so, però la colpa non è mia, io non voglio fare documentazione falsa, questa e quell'altra. Ma guarda, io gli ho dato, non il piano terapeutico, però c'era un foglio dove c'era scritto tutti i medicinali, con la data del giorno che sono andato alla visita, più di così, il piano terapeutico me l'hanno fatto quel giorno lì. Quindi la data era la stessa. Infatti, gente così ottusa. Ma guarda, la dottoressa ha detto, guarda, io mi scuso signora perché dovevo passargli tutta la roba, però pensando che a me mi tenessero, invece non mi hanno dato l'ok per rimanere a fare la dottoressa, quindi io devo passargli tutta la roba dei miei pazienti, capito? Però ci vuole tempo, ha detto, non è che, ma lui non può fare una cosa del genere, può bloccare un paziente, perché non stiamo scherzando, si è anche scusata con me, si è impegnata con me, mi ha telefonato 2 o 3 volte a casa. Sì, lo credo, ma Alicia non ha compreso che è ottuso, cambiato subito, vai a parlare a quello di via Sennori, via. Non c'è bisogno manco che ci vai, gli dici mandarti le via email, le ricette come fanno a me, cazzo, e allora manco uno ad andare a fare a Biranchini. E adesso vedo, mi informo un po' prima di cambiarlo, deve passare un mese perché l'ho cambiato, mi pare che l'ho cambiato 2 settimane già, e deve passare un mese prima di cambiarlo. Oi, per carità, dice mi sono arrivati 400 pazienti tutti insieme, te si lamenta, non è contento, così gli ho detto. E non ha migana di travagliare, anche io ottuso pure questo, perché quello si tratta di essere ottusi. Ma ci voleva una bella strigliata dalla parte delle forze dell'ordine, farglielo fare a forza. perché questa, io ho detto, non è possibile al telefono questa carabina, non è possibile che uno, che deve prendere fastidio, che non ce li ha, non li dia, specialmente quando sono fastidi salvavita. Ma stiamo scherzando, che puoi fare una cosa del genere? Si manda in galera se si dica che gol. Adesso io non so se la guardia medica te le poteva descrivere queste fastidie qui, facendogli vedere quel foglio. Non lo so, ma praticamente lui lo sapeva, perché la dottoressa ha detto di andare nel suo computer e c'era tutto quanto. Lui è andato nel suo computer, ha visto che c'ero io, che c'erano tutte le pastiglie che dovevo prendere, intanto ha detto che non me lo poteva fare lo stesso, capito? Aspetta un attimo, che curso vuole il premio? Cos'è andato a pisci? Se non era un bimbo si può una baggiata, a me mi rompi i capelli, perché lui pretende, capito? Perché cosa ha fatto per dare il premio? Si è mangiato tutta la pappa dalla ciotola e dopo un premio quando faceva bravo. Ah, così, così si piglia brutti, stare così. C'è Marumati, e fui buco come tra la voce. Ero grido, tu l'hai abituato così, adesso ti lo devi. E vivo delle macchine nuove! Ma invece sto posando, tu non hai visto, sei seduto e mi ha fatto un uovo, ti cadavo il premio, e subito a vedere la capella di una giocola, io lo gioco, no? Cappa cappa. Vabbè, comunque, già è bravo, ti lascio un meditato. E se no quando va a fare la pipì da solo? Che va a fare la pipì e se ne sale. Gli devi dire un pezzo di mister, per forza. Una forza? Ma chi si bosa è duro mister. Capari, come fa a aprire il portone, Natale? Tu scegli? No, il portone è aperto. Lui gli apre la porta, lui scende, fa i suoi bisogni e ne sale subito. Perché io lo guardo dalla finestra, no? A vedere se fa quello che deve fare. Perché sennò ti butti. Ma io va, sai, se lei è con sé, devi che ci sei di sé, devi dire a me. Lui si mette qua tra gli apparati e il letto. Siccori cali e sta fermo, se la, quando dico ciao, come dico ciao si ribessa, come dico ciao saluta tutti, si ribessa giù. Perché sono intelligenti, non di me, mi hanno detto il cucco di babbo, bello, il cucco di babbo, intelligente e curti. Ma la pioggia che mi sono preso, la pioggia che mi sono preso oggi. Sì, me lo posso immaginare già. Io avevo un impegno, lo stesso pure mi è saltato e meno male non sono uscito. Se no Romadeva mi bigliavo. Ma io non potevo non uscire, devo portare a Tyson, capito? Stavo aspettando il momento che smettesse, ma non ce n'era manco uno di momento, era sempre vendeva di continuo. Alla fine sono sceso e no, ci siamo bagnati, ma ha fatto quello che doveva fare. Sì, capito. Vabbè. Tutti a me riduttori bravi che affitteggiano, che c'è capito uno bravo che ti manda i medicini via email, tu gli fai una telefonata, lui te le scrive e te le manda via email, così tutte le stampe va in farmacia e ti ribiglia la roba fila e nulla, come ti guarda a me. Sì, la dottoressa mia è al corso, potrebbe venire al corso, ma che cazzo è vicino. Ma a me me l'avevano detto quando l'avevo già scelto, sono andato in ambulatorio e questa qui mi ha detto, ma che dottore si ha preso quello lì? E io gli ho detto sì, mamma mia, già l'ha fatto l'errore. Ma ha detto così una signora, poi stasera stavano parlando tutti, stamattina stavano parlando tutti di lui, se ne volevano andare. Cosa? Agente tu Zanca! Scende musica dietro! E il computer mi concesse, che gliel'ho messo apposta. Fatta ce l'hai! Ah no. Vabbè, adesso è tutto libero, là. Sa che sta roba vera. Noi ne abbiamo due computer, cazzo, non ne uso nemmeno uno io. Poi sempre il telefono uso, al posto del computer. Cosa già? Che noi ne abbiamo due, però lo uso poco, li uso poco, là. è sempre il telefono, di più del computer. Lo so, però al computer gli serve, perché gli ho messo WhatsApp nel computer, perché per fare la videochiamata col figlio, capito, se no non li vedi mai, è un casotto. Io ho messo Windows 10, mi ho comprato la licenza, 12 euro, e adesso c'è Windows 10 pure lì, perché gli hanno bloccato Windows 7. Ah, capo. E il figlio sembra a Napoli. No, il figlio è a Roma, l'altro è a Urbia. Ah, a Roma era, sì. Ho capito, sempre lì è. Almeno possono fare la videochiamata e lo vedo in grande, capito? Vede la nuora e tutto. Capito? Mi raccomando. Ma non è fatta. Che fai è? Attenzione, sul canale 10 c'è qualcuno che vuole favizzata. Hola? Non sei uscito. Gianni, ci sei? Sì che ci sono. Tatari. Oi, mi son chi? Stavo chiamando perché mi ero spostato un attimo. È giunta niente. Cazzo, un cagotto in ordine. Devi abbassare un po' la radio, Natali, perché non sta scendo bene. Ma che mi dici che bassa e che mi dici che assa, no, stavi uscendo quasi per saturare, stavi strappando. Se mi hanno detto di alzarla stamattina che era troppo bassa. Adesso va bene. E basta che lo tocchi di un pelino quell'apparecchio, lo sai com'è, no? Basta un pelino e ti butti. Già lo so. Poi se parli vicino al microfono ancora peggio e via dicendo, se urli lo stesso. E infatti è lontano il microfono. Va bene, Navi, arrivi a Ivan Gianni. Ciao, dove sei Carlo? Buonasera. Sto a fare una commissione, sto rientrando a casa e poi devo riuscire alle 8:15 per andare a lavorare. Preso quel vizio che mi avevo preso io, mi Carlo. Lo so, brutto vizio, purtroppo per qualche anno ancora me lo devo tenere questo vizio, come quello delle sigarette, poi le molli. C'ero prima in RAN, c'era Antonello e Claudio, sono rimasto una mezz'oretta a chiacchierare con loro e che poi dovevo uscire, è una commissione e mia moglie mi sta preparando la cena, adesso ceno veloce e riesco. Ma il Galaxy si è attaccato là, Carlo? Sì, l'ho provato stasera un attimino, ero giù in garage e ho un attacco volante, capito, un'antenna collegata a un palo esterno che ho, ho parlato con Claudio ma non c'è nessun altro, poi ho chiuso, però mi ho preparato l'attacco, domani lo provo. E quale tipo di attacco? L'attacco parlantenne? Ho capito. Dai, è una cosa di fortuna, ho usato. E c'è bene, sì. Sì, cantinerina, vabbè, con Claudio siamo vicini, praticamente lui diciamo che mi sentiva bene, Natalino non mi sentiva però. Capito? Adesso sono sotto casa, sto parcheggiando, sto salendo e ci sentiamo dopo se ci siete. Ciao, a più tardi. Ciao. Siamo qua, dai. Speriamo che entri qualcuno perché sennò è molto giù stasera. Oggi che piove che non si può uscire. Infatti. Io pensavo fosse pieno stasera perché sta piovendo, ho detto ti stanno a casa, lo accendo. E invece Nisba, magari entrano più tardi dopo cena, Ehi vabbè, pazienza. Si entrano, entrano, se no entrano, chiudemo e via. Perché io non le spendo più di soldi? Tanto entra di poca gente. Sì, non è che sta entrando poca gente, già ne sta entrando di gente. Sì, è qua. Avasemi in due, ma di... E adesso? Anche la mattina entrano. No, io la mattina è difficile, perché tutte le commissioni da fare non ce la faccio. KK. E andava. E adesso entrerà anche Carlo fra poco. sta togliendo la roba dalla macchina. Se entra, perché poi se deve mangiare, che ore sono? Le 8 meno un quarto. Sta già così tardi. Un attimo il telefono. Sì.